Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Beh, certo, camminare sull'acqua è un'attività storicamente riservata a pochi, anzi direi a uno, comunque. E correre, però correre magari è dei più. Non dire, comunque ci siamo, dai. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi parliamo appunto di questa roba qui sull'acqua. Vediamo. È con noi il fisico milanese che si è aggiudicato il prestigioso premio Ig Nobel. Ha dimostrato che è possibile correre sull'acqua. Se ci si trova sulla Luna, però. Giocare con i materiali e scoprire come saranno nel futuro per capire nuove tecnologie e professioni. Jessica l'anoressica, il cowboy bipolare e l'inno del malato immaginario. Sono alcuni brani del gruppo Psicantria, composto da due psicoterapeuti cantautori. Continuiamo in musica con l'orchestra Esagramma, composta da ragazzi con disagi psichici. Grazie agli strumenti musicali, sviluppano capacità espressive e creative. Oh, eccoci qua. Quest'anno l'abbiamo preso anche noi, l'Ig Nobel per la fisica. Tu ti senti parte, sento parte, beh, lo sai. L'abbiamo preso anche noi, la statale di Milano per la precisione, con un team di ricerca che adesso specificheremo. E appunto su questa ricerca che abbiamo un po' anticipato all'inizio, del correre sull'acqua. Attenzione, non sulla Terra però, cioè non sul nostro pianeta. No, che appunto è una roba riservata a pochi, sulla Luna. Però per chi magari non avesse sentito la scorsa puntata, ricordiamo che è il premio Ig Nobel, questo premio pazzo, certo, a ricerche pazze che però spesso contengono cose interessanti. Certo, per qualsiasi informazione, dettagli e riascoltare un po' il servizio della settimana scorsa potete andare sul nostro sito www.moebiusonline.eu e c'è tutto. Però adesso, congratulazioni Minetti, è qui con noi l'Ig Nobel per la fisica italiano. Buonasera Alberto Minetti. Buonasera. Congratulazioni, dunque, appena tornato da Boston. Sì, sono arrivato ieri l'altro, è stata un'esperienza abbastanza interessante, devo dire. Va bene, allora, lei dice che sulla Luna possiamo camminare sull'acqua. Lei è un fisiologo. Correre. Ecco, la correggo subito, perché l'importante è che sia correre. Camminare sarebbe realmente impossibile sulla Luna sull'acqua. Perché bisogna appoggiare poco. Ma no, non è tanto questo. No. È diciamo, chiamiamola così per essere più divulgativi, è la violenza con la quale noi spingiamo sull'acqua. Allora, i colpi che noi riusciamo a dare con i nostri arti inferiori, noi tra l'altro abbiamo fatto l'esperimento con due piccole pinnette che ci aiutavano ad avere una superficie maggiore, perché i nostri piedi sono piccoli in generale, in questo modo l'abbiamo aumentata, ma diciamo che la forza con la quale noi spingiamo sulla superficie è quella che ci permette di stare a galla. La forza è la frequenza dei passi, che deve essere evidentemente molto elevata. Scusi, lei l'ha provata dove? Ecco, questo è il punto. Allora, noi l'abbiamo prima di tutto predetto facendo un modello matematico che ci diceva che a gravità simili a quella della Luna la cosa sarebbe stata fattibile. Poi, per convalidare diciamo questa predizione puramente teorica matematica, abbiamo fatto un esperimento a Roma, con il team di Roma, del professor Acquaniti, perché loro hanno un sistema di imbragatura rimuove una certa parte del peso corporeo. Ne avevamo parlato. Quindi simula in qualche modo la microgravità lunare. Sì, ecco. Sì. Per esempio, se lei qui sulla Terra pesa 60 kg, sapendo che sulla Luna la gravità è un sesto, questa imbragatura la si regola in maniera tale che lei alla fine si sente così leggera da pesare solamente 10 kg. Sì, fantastico. Ecco. Sì, il soggetto è come un burattino, no? Con dei tiranti mollosi, esatto. Sì, come se avesse un paracadute, diciamo, però esatto. Che un paracadute che è computerizzato, per cui che esercita una forza verso l'alto costante, simile a, in modo tale che la risultante finale sia quella di sentirsi come sulla Luna. Sotto questo sistema abbiamo messo una piccola piscinetta, sai, quelle gonfiabili dei bambini, in realtà rotonda, che abbiamo riempito d'acqua. Avete delle foto, scusi Minetti? Sì, certo, beh, ormai le trovate credo su tutti i siti, comunque se volete ve le mando, e dove questi soggetti a un certo momento gli si dava il via e dovevano cominciare a spingere ripetutamente con queste pinne verso il basso sulla superficie dell'acqua. E una volta che riuscivano a rimanere a galla almeno per 10 secondi, noi contavamo che fosse un evento di successo. Un evento di successo. Sì. Con passi molto rapidi. Circa due si chiamano stride, ma non sono due passi al secondo, sarebbero quattro passi al secondo. In realtà. Quindi non è facile camminare così, eh? No, è per quello che più di 10 secondi ci sembrava già un miracolo, perché oltre i 10 secondi non si riesce ad andare, nel senso è un esercizio così intenso che non si può portare oltre un certo numero di secondi. Ma ci dice qualcosa sulla spiegazione invece di questo fenomeno, come sia possibile? Ma dunque, allora, la spiegazione evidentemente è un po' complessa dal punto di vista fisico, però se la vogliamo tirare proprio all'essenziale, allora nel momento, tutto è stato preso, diciamo, ad esempio guardando la lucertola e il cigno che sulla Terra fanno questa cosa, perché ci sono degli animali che da noi già lo fanno, questa attività di correre sull'acqua. Sì, è vero, e dei filmati ad alta risoluzione hanno mostrato che il grosso trucco di questa vicenda è che queste lucertole o questi cigni riescono, una volta che il piede palmato che loro hanno viene appoggiato sulla superficie, tra l'altro viene appoggiato molto rapidamente, per cui questo dà già quello che in fisica si chiama un impulso, e questo impulso serve già per collaborare a stare a galla, primo. Secondo, il piede poi affonda, ma affonda creando un buco, una cavità d'aria. Questa cavità d'aria in tempi brevissimi tenderebbe a chiudersi di acqua di nuovo, nel senso il piede verrebbe ricoperto dall'acqua ancora. Peccato che questi animali siano così bravi da retrarre la loro zampa prima che si chiuda questo buco. In questo modo non subiscono l'attrito dell'acqua nella retrazione della zampa. Allora, questa è la grande trovata che il cigno e la lucertola hanno sulla Terra. Noi riusciamo sulla Luna essenzialmente perché il nostro peso diventa un sesto. Ecco. Questo è il primo punto. Il secondo è che con la pinna, che non è una pinna molto grande, è una metà di dimensioni rispetto a una pinna da sub, per renderci conto, per cui piccolina, però già così aumenta di un paio di volte la superficie del piede, e lì soprattutto succede una cosa molto interessante sulla Luna: quella cavità di aria che deve essere riempita dall'acqua si chiude molto più lentamente perché c'è meno gravità. E quindi sfruttate questo punto. Ecco, voi avete ricevuto il premio una settimana fa, noi ne abbiamo parlato e su Facebook ci sono arrivate delle suggestioni, delle indicazioni. In particolare le rivolgo un po' la domanda, l'osservazione che le fa il nostro amico Bruno, che dice: anche l'acqua peserebbe di meno e quindi l'atmosfera non la comprimerebbe, e quindi comunque il corpo che corre sopra andrebbe comunque a fondo. Questo non è corretto, questa osservazione? Ma allora, dunque, di tutte le locomozioni che ci esistono su questa Terra, e cioè le locomozioni su terreno, come di quella che tutti i giorni noi sperimentiamo, quella sull'acqua di cui stavamo parlando, e quella aerea, evidentemente quando uno si ritrova in un pianeta ipogravitario, dove c'è meno gravità, quelle più facilitate sono quelle terrestri e quelle aeree. Quelle acquatiche meno, per il semplice fatto che è vero che l'acqua pesa meno, ma il punto è che la pressione che si sviluppa in profondità, quella se ritrova a tutto campo, nel senso che la cosa importante in quel tipo di propulsione sull'acqua è quell'impulso che vi dicevo prima, cioè quanto è la violenza dell'impatto, e quello rimane. Oh, benissimo, grazie Minetti. Davvero, e ancora complimenti. Grazie molto. Arrivederci e buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono stato al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove si è aperto un laboratorio di scienza dei materiali. È un laboratorio molto interessante, adesso ve lo racconto. Lì ho incontrato Enrico Miotto, che è il tutor, il tecnico, insomma, che accompagna tutti e organizza anche questo laboratorio, e poi Francesco Butera, un ingegnere di SAES Group. È una grande azienda italiana che ha posizioni di leader mondiale nella scienza dei materiali, in particolare nei materiali a memoria di forma. L'intervista incomincia con Enrico Miotto, al quale io ho chiesto un'impressione che avevo, cioè che questo laboratorio accompagna, è molto rivolto ai giovani, agli studenti, accompagna i giovani nel vedere come i vecchi e i nuovi materiali si incontrano, hanno funzioni uguali o funzioni estremamente diverse. Sentiamo. È far capire che ogni materiale ha un suo comportamento e che questo comportamento è ben adatto a una certa funzione. E quindi ci sono materiali vecchi, storici, che svolgono benissimo la funzione per cui vengono utilizzati normalmente, e ci sono invece materiali che si prestano molto bene a svolgere funzioni differenti, con migliore efficienza, con una facilità di uso più elevata, che quindi non vogliamo, diciamo, fare sono e lumiere, grandi materiali innovativi. No, ci sono dei materiali che sono innovativi, sono buoni perché funzionano bene. Qui ci sono davvero tanti esempi, ne abbiamo visti alcuni spettacolari. Io ho visto qua dei pezzettini che sembrano pezzettini di ferro e che a un certo momento, addirittura immersi in acqua un po' tiepida, riescono a configurarsi diventando delle scritte. Questa è una parte della scienza dei materiali che si chiama memoria di forma, che forse è una delle più affascinanti. Sì, perché è il materiale stesso che ingloba una funzione, sa fare delle cose, e il materiale stesso sostituisce delle altre parti, come potrebbero essere dei sensori o dei motori. Ecco, questo è un punto un po' particolare, cerchiamo di spiegarlo, perché dire che un materiale può sostituire un motore non è banale, eh? Non è banale, è vero. Fate così, mente locale, pensate a una molla. Una molla, io la tiro e lei mi tira, esercita una funzione. Se io tengo una molla tesa, quando la rilascio lei può tirare qualcosa, un po' come la corda di un arco, può lanciare una freccia. Beh, immaginate che questo qui venga svolto davvero da una molla per conto suo. Sente una certa temperatura e agisce. Si contrae e a quel punto svolge un lavoro. Francesco Buttera, tu appartieni al Size Group, che fa un sacco di cose con questi materiali a memoria di forma, e poi certo dobbiamo ricordare che siete fortemente coinvolti in questo laboratorio perché lo supportate, l'avete promosso. Mi hai fatto vedere prima un pannellone di quelli classici che si vedono applicati ai soffitti e che regolano l'aria condizionata, no? Che entra in un ambiente. Ecco, lì abbiamo un esempio classico, no? Assolutamente sì, è l'esempio classico degli attuatori a memoria di forma. Innanzitutto la cosa che vorrei dire, vorrei un po' levare diciamo la magia attorno a questo materiale. In realtà sembra magico, ma non c'è nulla di magico. È un materiale industriale che viene prodotto da Size Getter è in assoluto in questo momento il leader mondiale nella produzione e nella vendita delle leghe a memoria di forma, ed è una lega nickel titanio che ha questa caratteristica di reagire alla temperatura. Quindi il famoso padellone che ti ho fatto vedere prima, fondamentalmente non è altro che un diffusore in cui sono integrate queste molle a memoria di forma che sentono la temperatura dell'aria, e sulla base della temperatura dell'aria muovono il lancio dell'aria stessa nella stanza. Per cui se l'aria è calda va verso le persone, quindi verso il pavimento, se l'aria è fredda va verso il soffitto. La cosa importante è che un meccanismo di questo genere fino ad oggi lo si realizzava con dei sistemi elettronici, dei motorini che regolavano questo, e quindi tutto doveva essere costruito in funzione. Qui invece c'è una soluzione locale. Assolutamente sì, c'è una soluzione in cui il materiale, come diceva giustamente Enrico prima, è il cuore del sistema, sente la temperatura, si adatta a quella temperatura, si muove con quella temperatura. Una semplificazione fortissima: non abbiamo più bisogno in questo caso di elettricità, non abbiamo più bisogno di motorini, di sensori. Abbiamo altre applicazioni in cui il materiale viene stimolato invece attraverso, per esempio, il passaggio di una corrente. Mi pare che uno degli esempi più affascinanti sia quello di questi fili a memoria di forma che sono applicati negli obiettivi fotografici dei nostri smartphone. Lì cosa succede? Esattamente, diciamo lì i fili, in questo caso parliamo di fili molto sottili, 25 micron di diametro, quindi quasi invisibili, lavorano come se fossero un muscolo umano, quindi fondamentalmente tirano il meccanismo e fanno muovere il meccanismo. Nel caso delle macchine fotografiche, noi abbiamo realizzato degli attuatori che muovono la lente su e giù, quindi abbassano e alzano la lente sul sensore, quindi fanno una funzione di autofocus sul sensore stesso nel momento in cui vengono stimolati da un segnale elettrico, e nello stesso tempo muovono anche l'intero camera module, quindi l'intero sensore, facendolo appunto oscillare per andare a recuperare una vibrazione che può venire per esempio dalla mano durante una fotografia. Quindi fanno da stabilizzatore d'immagine. Ecco, Enrico Miotto, qui per esempio in una funzione di questo genere viene fuori un fatto certamente spettacolare, cioè la risposta di questi materiali creando cambiamenti è di una rapidità impressionante, perché è chiaro che facendo una foto, se questi avessero ma un secondo, sarebbe un'eternità, nel senso che verrebbe assolutamente mossa. Certi materiali reagiscono molto rapidamente, anche questo è legato al fatto che vengono usati per certe funzioni, quindi chiaramente se reagiscono molto in fretta possono essere usati in quel campo. Ci sono anche altri materiali che hanno la stessa funzione, per esempio alcune protezioni da moto fatte con questo materiale che si chiama D3O, che è un materiale morbido, una gomma, però quando viene colpito diventa rigido come un guscio di plastica. È chiaro che lì, se tu cadi dalla moto, vuoi che reagisca immediatamente appena tocchi l'asfalto. Da una mia testimonianza qui dal laboratorio, questo materiale protettivo per caschi, io l'ho tenuto in mano ed è molloso e gommoso. Dopodiché basta picchiarlo rapidamente con un colpo che è tipico dell'urto e immediatamente diventa rigido. Questo è veramente impressionante. Un'altra cosa però, Butera, invece, possiamo dire che ci sono dei settori industriali di produzione che ancora non si sono sufficientemente accorti di questo potenziale dei materiali memoria di forma e che invece sarebbe interessante, insomma, se lo facessero? Sì, sicuramente, noi siamo al museo anche per questo, perché chiaramente il fatto di presentare questa tecnologia e di divulgare questa tecnologia a tutti i livelli, dagli studenti alle aziende che volessero applicarla, chiaramente è un discorso molto, molto importante. Però come dicevi tu giustamente, ci può essere la possibilità di applicazione di queste tecnologie in nuovi campi. Mi viene in mente ad esempio il tessile, in cui per esempio attraverso l'utilizzo di questi fili, parliamo di fili anche molto sottili, quindi fili che raggiungono i 10-20 micron di diametro, possono essere appunto tessuti all'interno di un capo di un tessuto e dare quindi delle forze o delle attuazioni al tessuto stesso, per esempio per applicazioni al campo della fisioterapia piuttosto che della riabilitazione. Bisogna considerare che entrare dentro applicazioni di questo genere non alza i costi di produzione, ma anzi tendenzialmente i costi delle soluzioni si abbassano. Sicuramente sì, come ti dicevo prima, io normalmente quello che tendo a dire è che nessun progetto è stato mai fermato per un problema di costo, perché diciamo questa soluzione, questa tecnologia è una tecnologia che semplifica. Dunque, qui venendo a questo laboratorio sono stato raggiunto da una folgorazione, perché una vecchia vicenda che io credo tutti quelli che ci ascoltano hanno assolutamente vissuto, soprattutto negli anni Ottanta, il famoso e famigerato Uri Geller, che era costui che piegava le forchette guardandolo, no? In effetti si è sempre detto che era un truffatore, è rimasto un po' un mistero, insomma, come dire. E invece era un furbissimo anticipatore. Certo, usava in maniera spettacolare una lega memoria di forma, cioè ha costruito dei cucchiaini, delle forchette con questo materiale, li teneva al freddo e quindi rimanevano morbidi, malleabili, li poteva piegare. Lui è un prestigiatore, lo dice, è un normale un prestigiatore, adesso lo dice. Cosa faceva? Riusciva a farsi dare un cucchiaino, a prendere, lo scambiava col suo in modo che nessuno se ne accorgesse, lo piegava e poi lo faceva tornare esattamente come era, oppure faceva il contrario, prendeva il cucchiaino intero e con la forza del pensiero, tenendolo in mano, il cucchiaino si piegava, naturalmente perché gli aveva assegnato una forma piegata prima e il materiale tornava alla sua forma tenendolo in mano. Molto spesso gli illusionisti e i prestigiatori usano materiali interessanti, per esempio cristalli che assorbono molto l'acqua, che vengono usati adesso normalmente nei pannolini dei bambini. Ai tempi venivano usati per fare trucchi in cui tu versavi dell'acqua in un vaso e l'acqua scompariva. L'acqua era lì assorbita dai cristalli e però non si vedeva più e tu rovesciavi il vaso e non usciva più niente. I prestigiatori sono in gamba in questo. Ma allora, scusa, visto che ce l'abbiamo qua di fianco, ci sono delle aziende che, come fare, entrano in rapporto con i prestigiatori e con anticipo... Non vendete materiale per prestigiatori. Ma noi vediamo materiale per tutti, onestamente, però in questo caso sicuramente non siamo stati noi a fornire il materiale a Uri Geller. Un'informazione in conclusione per quelli che vivono a Milano e in Lombardia: la notte dei ricercatori, il 27, sta arrivando. Bene, il laboratorio di scienze dei materiali è aperto e quindi ci si può andare. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ah, quindi lei è psichiatra, ma psicologo o psichiatra? La lingua è il mio cavallo di battaglia, sono laureato in psicologia. La cura non prevede la ricetta, la parola è la mia sola terapia. Mi spieghi che io prendo qualche appunto, ma guardi certo immagino capisco. Lei soffre perché si è incantato il disco, consiglio una psicoterapia. Si sente un gran parlare di empatia. Federico, quella che stiamo ascoltando è una canzone che si intitola Psicantria. Sì, di uno che ce l'ha su con tutto il mondo. Con lo psicologo o con lo psichiatra, mi spieghi? Completamente. Ecco, e allora da chi possiamo farci spiegare? Intanto che cosa vuol dire psicantria? Intanto che ruolo può avere una canzone di questo genere, con questo contenuto? E lo facciamo con Gaspare Palmieri, che è autore e anche interprete del brano. Buonasera intanto, Palmieri. Buonasera. Quindi lei è psichiatra? Un'autocritica. Esatto, lei è psichiatra? Psichiatra, psicologo o psicoterapeuta? Ci faccia capire. Psichiatra, medico psichiatra e psicoterapeuta, e lavoro a Modena, oltre a essere anche cantautore. Ecco, cantautore. Ecco. Il suo gruppo, diciamo così, si chiama Psicantria, come la canzone che abbiamo appena ascoltato. Intanto che cosa significa psicantria? Ve la siete un po' inventata, ma ha un significato importante. Sì, insieme al mio collega psicoterapeuta, psicologo, psicoterapeuta e cantautore Cristian Grassilli, abbiamo così inventato questo progetto, che psichiatria significherebbe cantare la psichiatria, quindi c'è una parola che non esiste, e consiste nello scrivere una serie di canzoni che abbiamo prodotto, che hanno come tema il disagio psichico e quello che noi chiamiamo lo psicomondo, cioè tutto ciò che ruota attorno alla cura e alla gestione dei disturbi psichiatrici. Chiaramente anche dal titolo, dal nome, c'è un atteggiamento anche ironico e di sdrammatizzazione di situazioni che chiaramente possono essere anche drammatiche, però noi usiamo un po' il registro dell'ironia, noi crediamo che possa essere molto potente. Infatti qui c'è forse un duplice aspetto: l'ironia utilizzata appunto per sdrammatizzare una cosa molto più seria, e poi forse anche l'utilizzo della musica per risolvere alcune problematiche legate ai problemi psichiatrici, o no? Certo, guardi, devo dire che inizialmente il progetto è nato molto come progetto più psicoeducativo o informativo, non proprio con una valenza prettamente terapeutica, perché insomma noi utilizziamo la musica come uno dei tanti strumenti nel nostro lavoro, ma non siamo così folli da pensare che proprio ascoltando una canzone uno guarisca da una depressione o dagli attacchi di panico, eccetera. Però crediamo che la musica sia uno strumento molto potente, sia per far arrivare dei messaggi forti, anche perché nei contenuti delle canzoni, al di là degli aspetti così più ironici, ludici, noi utilizziamo proprio anche le nostre conoscenze psicologiche, psicoterapiche, quindi il messaggio, invece che arrivare dal lettino dell'analista, arriva con la chitarra e cantato, insomma. Sì. Ma scusi, cos'è che fate esattamente? Cioè, un brano come quello che abbiamo sentito, voi lo fate sentire a un paziente? No, allora, come dicevo, appunto, è nato più con finalità educative, per cui è molto più frequente che noi cantiamo queste canzoni nelle scuole o in associazioni o all'università, un po' per spiegare come sono e cosa sono le malattie mentali, e quindi anche con finalità preventive. E poi è chiaro che quando si cantano queste canzoni c'è un'identificazione, le persone che hanno sperimentato questi stati d'animo, questi problemi, un po' si possono identificare, e ci sono dei nostri colleghi che le utilizzano anche in terapia, cioè magari con una paziente con disturbi di comportamento alimentare fanno ascoltare la canzone Jessica l'anoressica. Facciamola ascoltare. Mi chiamo Jessica, sono anoressica, nella mia stanza c'è una bilancia, c'è un grande specchio che mi tortura, mi fa paura. Un cereale, un chicco di riso, poi mi ritrovo fuori col peso, perfino l'aria mi fa ingrassare, i carboidrati si è andannati, le proteine, quelle sgualdrine e tutti i grassi son satanassi. Dai, vieni fuori, mangia lo specchio, perché il suo trucco ormai è vecchio, con i suoi occhi lui ti deforma e poi ti inchioda sul peso forma. Dai, vieni fuori, vieni a ballare, qui ci siamo tutti, prova a guardare. Palmieri, intanto complimenti, sono molto tutte bello. Molto piacevoli, devo dire. Grazie, grazie. E insomma, hanno davvero, credo, un ruolo abbastanza importante, soprattutto, come diceva, nella divulgazione. I testi, sì, si sente che sono un po' curati e scritti, ecco, da uno specialista. Certo. No, sicuramente, come dicevo prima, l'obiettivo principale è la divulgazione, anche la lotta allo quello che si chiama stigma, cioè che è quell'atteggiamento un po' negativo di molte persone che hanno verso i disturbi psichiatrici e verso le persone che soffrono di questi disturbi, quindi con una tendenza all'isolamento, a isolarli, a farli vergognare quasi di soffrire di queste cose. Dall'altra parte, se non proprio una valenza terapeutica, l'ironia da una parte può aiutare a scardinare certe rigidità che ci sono molto spesso nelle persone che soffrono di questi disturbi, e dall'altra parte anche il rispecchiarsi in una canzone, uno può prendere un po' le distanze dalla propria esperienza e anche guardarla come da fuori, e a volte è il primo passo per riuscire a cambiare questo. Sì, qui sembra esserci un confine un po' sottile, che però probabilmente, essendo poi gestito da degli addetti ai lavori, quindi da degli psicoterapeuti o degli psichiatri, è di fatto gestibile, perché viene anche da pensare che ci possa essere, come dire, una rimozione forte, no, da parte del paziente. Però insomma, invece, se si riesce a giocare un po', si rompe una certa rigidità, lei diceva, che è un problema, no, nel dialogo col paziente. No, infatti credo che il fatto insomma che il nostro progetto in qualche modo abbia riscosso dei consensi, sia un po' andato in giro, nasceva proprio dal fatto che viene fatto da degli addetti ai lavori, quindi non da un cantautore che magari racconta da fuori una realtà che può avere visto in, certo, fuggita. Sì, sarebbe fastidioso, cioè se andasse sul mercato, insomma, sarebbe assolutamente sbagliato. Sì, magari sarebbe piacevole come pezzo, ma produrrebbe delle conseguenze negative. Sì. Ma senta, sulla valenza appunto terapeutica della musica, ovviamente le diceva, è certo che una canzone non è che può risolvere una patologia, però volevo capire anche, la musica attiva può essere in qualche modo un aiuto per uno che ha problemi di questo tipo? Assolutamente sì, ci sono anche tantissimi studi proprio sull'uso della musicoterapia. Christian Grassilli è anche musicoterapeuta, e lavora con gruppi di pazienti sia nello scrivere canzoni sia nel farle ascoltare. Quello lo faccio anch'io nel reparto con le persone ricoverate. Per me, ad esempio, molte canzoni dei cantautori possono essere utilizzate all'interno di una psicoterapia, perché è fortemente evocative sia di vissuti della persona magari in altri momenti della sua vita, ma sia anche per i contenuti, canzoni che toccano delle corde che hanno a che fare con l'esistenza, con la filosofia, con la vita. Quindi io credo che la musica sia uno strumento molto potente, che viene già utilizzato nella salute mentale, ma potrebbe essere utilizzato ancora di più. Rispetto alle potenzialità, lei dice. Sì, ci sono molti studi anche di neuroimaging che mostrano, insomma, quali aree si attivano con la musica. Ormai tantissimi studi mostrano che la musica ha degli effetti in campo medico. E non c'è ancora una visione sistematica e comunque sì, non è ancora introdotta come terapia, ad esempio, in tutti gli ospedali. C'è una cosa un po' a macchia di leopardo, in certi posti viene utilizzata, in altri no, Poi in Italia, ad esempio, non è ancora riconosciuta la figura del musicoterapeuta, invece ad esempio in Inghilterra e in altri paesi europei. Sono già più avanti. È già una realtà. Sono già più avanti. Quindi insomma anche noi cerchiamo di dare il nostro contributo nel sottolineare quanto la musica può fare bene. Diamo una mano, ecco, se qualcuno volesse ascoltare tutti i testi, ascoltare tutte le canzoni, avete voi un sito? Sì, noi abbiamo il sito www.psicantria.it e poi siamo anche, abbiamo una pagina Facebook. Quindi vi trovano, sicuramente noi metteremo un link sul nostro sito www.moebiusonline.eu. E per chi è ipocondriaco cosa facciamo ascoltare? Il malato immaginario? Chiaramente l'inno del malato immaginario. Grazie Palmieri. Grazie. Sento un formicolio, ho la palpitazione. L'orecchio fa un ronzio, ho un calo di pressione. Il cuore sulla destra, il fegato qui in basso. Ho male dappertutto, in pancia come un sasso. Ho una frenesia, mi prende un capogiro. A volte sono insonne, o dormo come un ghiro. Spiegatemi per pacco, ho perso ogni interesse. Perché son tanto fiacco, avrò mica l'AIDS. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io so, Chiara, che sei stata a vedere e a sentire una cosa molto bella che adesso racconti a me e a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, sì, sono proprio contenta di raccontarla perché è stato un bel pomeriggio, devo dire, organizzato da Mito Settembre Musica, che è una grossa manifestazione musicale che si tiene per tutto il mese di settembre nelle città di Milano e Torino, comunque una manifestazione a kermesse molto grande. E io in particolare sono andata al Franco Parenti, che è un teatro milanese, a vedere una conferenza, in primo luogo Musica e Cervello, oltre la musicoterapia, curare il disagio, in cui appunto c'erano professori che raccontavano di come la musicoterapia, del ruolo che ha la parte in generale nella cura di alcuni disagi psicologici e psicofisici. Invece poi sul finire del pomeriggio ho proprio ascoltato un'orchestra un po' particolare, si chiama Esagramma. Adesso entreremo veramente nel vivo di quell'emozione che abbiamo provato, davvero eravamo un 500 persone, veramente è stato molto emozionante. E lascerei però introdurre con l'audio che adesso vi faccio ascoltare la coordinatrice artistica di Mito Settembre Musica, Francesca Colombo, che lo introduce così. Condivido con voi un paio di aneddoti di bambini che vedrete. Vi invito a guardare, proprio non solo ascoltare, ma a guardare i loro sguardi, a guardare il rispetto con cui guarderanno la loro direttrice Licia Sbattella, la loro dignità, la loro gioia di avere un ruolo importante in orchestra. Il metodo che poi però Licia vi dirà è quello anche di affiancare in orchestra anche alcuni fratelli ai bambini affetti da patologia. Sentirete duettare due fratellini al contrabbasso e all'arpa. È veramente commovente come si aspettano, si ascoltano, si aiutano. Ogni bambino cerca veramente il bel suono subito. Ogni bambino impara con la musica la modulazione. Chi non sa esprimersi a esprimersi, a parlare, chi non sa magari stare tanto zitto ad ascoltare, le pause del silenzio, il bello della polifonia. Proprio il brano conclusivo, l'inno alla gioia di Beethoven, in cui appunto i ragazzi si sono esibiti. Abbiamo capito che erano ragazzi con alcuni disagi, credo anche abbastanza gravi, e io però vorrei lasciare la parola alla direttrice di orchestra, che era lì, l'avete sentita nominata, Licia Sbattella, che abbiamo invitato qui questa sera proprio per raccontarci questo bellissimo progetto. Intanto buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Lei è bioingegnere di formazione, ma anche psichiatra e psicoterapeuta, ed è la direttrice scientifica di questo bellissimo progetto che si chiama Esagramma. Lascio a lei la parola per raccontarcelo un pochino, di che cosa si tratta e chi compone questa orchestra veramente sui generis. Quanti erano, per esempio? nell'orchestra sabato è la formazione complessiva di questa occasione, eravamo 42, di cui 20 ragazzi speciali fuori dal comune, bambini e adulti con difficoltà sul fronte nel fronte psichico e mentale, soprattutto disabilità di tipo ritardo o autismo. Ecco, ci dia un po' anche l'età, diceva che sono diverse. Sì, andavamo dai 7 anni fino ai 55. Quindi è proprio un'orchestra stranissima. Era un'orchestra stranissima e la particolarità era, posso dirlo sbattella io, che erano impeccabili dal punto di vista artistico, musicale, veramente molto molto bravi. Ovviamente l'audio adesso era quello di ambiente, però davvero devo dire molto toccante. Però poi c'era tutto quella, la componente ovviamente che fa il bambino che appunto non è attento al rigore e alla forma, per cui magari qualcuno che salutava la mamma tra il pubblico, qualcuno che si agitava, qualcuno che muoveva i piedini, quindi veramente veramente molto bello da vedere, devo dire. Ecco, le lascio la parola. Una formazione molto rappresentativa dei percorsi che rivolgiamo da ormai da più di 25 anni sul fronte appunto dell'uso della musica sinfonica in orchestre accoglienti, partecipative, quindi piccoli gruppi orchestrali prima e poi orchestre sinfoniche vere e proprie. Quindi l'organico dell'altra sera coinvolgeva sia i più piccoli che partecipano a questi percorsi ma che hanno già raggiunto una forma sinfonica, quindi che hanno affrontato partendo dalle ninna nanne, le marcette, gli strumenti veri dell'orchestra come alleati preziosi, arrivando fino alla sinfonia, e anche gli adulti che hanno frequentato questi percorsi di musicoterapia orchestrale tanti anni fa e che si sono poi specializzati, hanno fatto della musica una loro compagna di vita proprio. Quindi la formazione era volutamente eterogenea dal punto di vista dell'età, e poi ovviamente l'orchestra è composta anche dai professionisti formati alle metodologie che suonano all'interno di questa orchestra, perché sono un po', come dire, delle boe per sostenere un po' tutto, sono indispensabili. C'è un gioco di parti, la musica sinfonica consente proprio a livello polifonico anche questo, quindi che ci siano parti molto spinte e parti più semplici ma assolutamente variate, modulate nel tempo, perché le sinfonie che suoniamo sono Mahler, Beethoven, Dvořák, quindi il rispetto della forma è sostanziale. Senta, maschi e femmine, no? Assolutamente sì. Il risultato era impeccabile, però devo dire che dietro probabilmente c'è un lavoro incredibile di anni, probabilmente. Sì, c'è un lavoro molto interessante, diciamo, a diversi livelli. Innanzitutto il piano musicale si incrocia col piano psicopedagogico, perché ci sta a cuore una crescita armonica e un arrivo all'età adulta con lo sviluppo dei tratti di identificazione personale, anche in presenza di quadri importanti di patologie come quella dell'autismo, per esempio, la conquista di modulazione dei tratti personali, di ascolto dell'altro, di esposizione, come dicevate prima, quindi un intreccio della voce, diciamo, propria, anche se non si parla di voce ma di voce strumentale in questo caso, l'intreccio all'interno del contesto cooperativo anche nelle situazioni in cui l'immagine di sé è molto fragile, l'affrontare la novità presenta sempre grossi problemi, ma soprattutto anche l'interazione con l'altro, con gli altri, risulta molto compromesso. Quali sono le patologie? Parliamo innanzitutto di, abbiamo lavorato per tanti anni soprattutto nei quadri, diciamo un po' genericamente, di ritardo intellettivo, quindi disturbo di disagio intellettivo, ma anche quindi con anche forme di grave ritardo, e poi forme legate all'autismo, quindi disturbi generalizzati dello sviluppo con l'autismo in particolare. E poi però negli anni la metodologia si è estesa arrivando a quadri di disagio anche profondamente diversi, quindi intanto a situazioni di trauma magari derivanti anche da una malattia di tipo oncologico piuttosto che di tipo trauma post-traumatico, eccetera, ma anche situazioni tipo psichiatrico, situazioni anche invece di fragilità psicologica, come potrebbe essere associata ai quadri di dislessia o di disturbo di iperattività, quindi quadri che presentano sostanzialmente un assetto intellettivo normale, no? Ma disturbi psicologici dovuti a diverse cause. Le chiedevo questo, cioè questa possibilità di utilizzare la musica, mi viene in mente quel testo di Oliver Sacks, Musicofilia, dove lui descrive questi casi stranissimi, per esempio di un uomo che praticamente aveva una patologia tremenda, memoria che durava 10 secondi e però riusciva a suonare al piano interi pezzi di Bach, come se la possibilità di lavorare con la musica fosse qualcosa che non avesse niente a che vedere con tutto il resto. La musica ha una sua capacità di ingresso nella mente che è quasi autonoma. Diciamo che oggi ci sono molti studi molto interessanti appunto sul fronte proprio della capacità della musica di interagire con i tratti mentali e dell'esperienza sia a livello tacito che esplicito, quindi se vuole conscio o non conscio, se vogliamo semplificare un attimo il termine anche se non è proprio appropriato, quindi una capacità della musica, diciamo, dell'assetto sonoro di arrivare alle dimensioni che tutti noi abbiamo sperimentato, per esempio nei primi momenti di vita, nell'interazione sonora con le figure fondamentali, no? Anche nella relazione mamma-bambino o figure rilevanti. La dimensione sonora ci consente di apprendere poco per volta i legami affettivamente significativi, no? Poi strutturando nello sviluppo dei processi mentali, quindi anche dei processi più complessi, la dimensione sonora resta una dimensione privilegiata, particolarmente disponibile al lavoro mentale, no? Quindi c'è molto interesse oggi per la capacità della musica di arrivare a questi dimensioni anche del vissuto esperienziale tacito, ma mettendo a disposizione nuove strutture di pensiero che sono poi reinvestibili nelle dimensioni più complesse del pensiero, quindi una possibilità di lavorare anche delle situazioni più compromesse da certi punti di vista. E infatti la cosa impressionante, Sbattella, è che durante il concerto i ragazzi erano molto concentrati e sono stati concentrati per una durata per circa un'ora, ecco, sì. Io immagino che lì ci sia, per chiunque credo che sia difficile concentrarsi per un'ora in maniera così attenta, e invece loro lo facevano con grande naturalezza. Credo che anche quello sia uno dei risultati che voi vi prefiggete. Assolutamente, sì. Quando iniziamo a lavorare abbiamo bambini ma anche adulti che hanno un tempo di concentrazione molto limitato, una disponibilità all'interazione, dicevamo, molto compromessa, e la passione per lo strumento, la curiosità all'inizio per lo strumento, per i suoni, ma da subito proposti nella forma orchestrale, quindi violini, violoncelli, contrabbassi, Mozart piuttosto che Dvořák o Bartók rielaborati, quindi da subito la forma della Nina Nanna della Marcia li accoglie dando loro la possibilità di piccoli gesti che diventano subito significativi, no? Quindi questa dinamica li cattura progressivamente in sessioni di lavoro proprio musicale che li affascina e li coinvolge veramente. Quindi anche il bambino che all'inizio corre intorno alla stanza, che esplora, tocca, sfiora la bacchetta, la lascia cadere quasi per caso ma poi ritorna e si coinvolge poco per volta, nell'arco di questo triennio che chiamiamo di musicoterapia orchestrale conquista poco per volta prima il piccolo concerto di 10 minuti, poi 20 minuti poi l'ora che è l'esposizione finale sinfonica. La scelta dello strumento come avviene? Cioè come uno avviene? Si fionda sullo strumento preferito oppure glieli fate provare un po' tutti? Allora, ci vogliono 3 anni per capire qual è lo strumento preferito per chiunque, ma non per il bimbo con problemi, per chiunque, nel senso, adesso esagero un sì, po'. Sì, c'è della gente che incomincia da una parte e finisce dall'altra, esatto, anche al conservatorio. Esatto, allora i percorsi che noi rivolgiamo anche a bimbi che non hanno assolutamente problemi sul fronte dell'apprendimento, ma che sono questo Prova l'Orchestra, che viene rivolto anche a bimbi della scuola elementare e anche a ragazze delle medie, consente un'esplorazione delle voci strumentali all'interno di questo tessuto strutturato orchestrale, ma l'esercizio sinfonico ci fa scoprire veramente la voce che entra maggiormente in risonanza col nostro modo di esporci. Sì. E quindi nella storia di questi 3 anni per tutti vede nel secondo anno l'espressione di una passione particolare per uno strumento, quindi la scelta avviene durante il secondo anno, ma durante il terzo questa scelta viene ancora un pochino riallargata, rimessa in discussione, perché non sia anche in questo caso una piccola fissazione, no? Ma sia una vera passione. Senta, grazie Sbattella, io vorrei dire, c'è il sito internet dentro il quale si possono avere tutte le informazioni per raggiungervi e mettersi in contatto con voi, esagramma.net, e ovviamente ci sono anche le modalità per chi volesse sostenervi. Giustamente noi sul nostro sito metteremo tutti i contatti. Grazie, davvero un grandissimo lavoro. Grazie per il bel lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, grazie, buona serata a tutti. Oh, siamo in conclusione, ma questi sono sempre... Sono sempre loro, è l'orchestra Esagramma che esegue Mahler. Sono bravissimi. E con queste note noi salutiamo i nostri ascoltatori. Sì, abbiamo raccontato tutto. E vi diamo appuntamento fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.